Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Gonna bring. Ciao, io non sapevo manco chi fossi. Com'è che si chiama? Cruciani? Cruciani? Io non sapevo manco chi fossi. Da quando sto col mio fidanzato ti odio un sacco, perché sento il tuo programma e siamo al top sempre, 24 ore su 24, anche le repliche d'estate. Il mio fidanzato sentiva anche le repliche. Per favore, potresti evitare di farlo, di fare questo programma, così io non ti sento più. Grazie. Vabbè, questo mi sembra un po' troppo, ragazzi, un po' troppo eccessivo. Avete sentito, Parenzo è tornato, eh? Tornato, ho letto già i giornali stamattina, ho controllato il disgusto. Ma che c'entra, scusa? Il disgusto per che cosa? Non ho notizie, capito. Notizie, la Lega lì a Pontida, mamma mia, che roba, ragazzi. Che mi ero abituato a vedere la televisione americana, anche lì, voglio dire, il trionfo di quel coglione di Trump, che a un certo punto... Non toccarmi Trump, non toccarmi Trump. Quel cretinotto dai capelli gialli che l'altro giorno ha detto la Clinton è contro la diffusione delle pistole. E allora dovrebbe rinunciare alla sua scorta che è armata. Cioè, ma uno può dire una minchiata più grande? E intanto saliamo nei sondaggi. E candidarsi alla presidenza, saliamo, del paese più grande del, saliamo del mondo. Saliamo nei sondaggi, ma siamo, ragazzi, lì. Siamo lì a un passo. Ma come si fa a dire una minchiata simile? Siamo a un passo, siamo a un passo, siamo a un passo. Che mondo. Vabbè, comunque, sei stato richiesto da moltissimi ascoltatori, devo dire, sei stato richiesto da molti ascoltatori. Mi hanno scritto, mi hanno detto che qualcuno ha anche insultato pesantemente mentre non c'ero. Mi hanno informato i servizi segreti mentre ero lì a Tel Aviv, mi hanno informato di tutto, quindi so che c'è stato un minchione che ha chiamato. Sì, ma la maggior parte delle persone ti hanno richiesto ad alta voce: dov'è Parenzo? Sì. Dov'è finito? Perché non è qui? Farsi i fatti suoi, dov'è? No, ho capito, però sei stato richiesto, per dire, non sei solo odiato. Da truppe di miserabili sono stato richiesto. No. Senti, però, un'anticipazione della rubrica su Radio Padania, te la voglio fare sentire. Sai chi è Pellegrin? Come no? Uno dei conduttori di Radio Padania Libera, no? Radio Uno degli istigatori di odio. È uno che, tra l'altro, la Padania è tornata di attualità in questi giorni, no? Prima era stata cancellata dalla Lega Nazionalista, invece adesso è tornata di attualità la Padania, no? Tutti quanti a dire la Padania di nuovo, l'indipendentismo, eccetera. Sì, è un po' come quel bruciore di stomaco che ogni tanto ti ritorna su e si tramuta in nausea. Senti Pellegrini, senti. Preferirei davvero essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. Questa è la mia posizione. Preferirei la mafia. La provincia, la città anche, nella quale vi è il minor numero di furti in appartamento è Palermo. Ecco, la mafia, se io mi difendo dal ladro, la mafia non viene a mettermi in galera. Lo Stato italiano, se io mi difendo dal ladro che viene in casa mia e minaccia i miei cari, lo Stato italiano mi processa, minimo, su questo è sicuro, perché c'è l'azione penale obbligatoria, eccetera, eccetera. Poi, se non mi va bene, mi mette anche in galera. Cioè, preferisco essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. È una persona disturbata, questo qua, ma fortemente disturbata. Oh, ragazzi, Borghezio è tornato a fare il Borghese. E il Borghese, Parenzo, Borghezio è tornato a fare il Borghese. Dove? Ah, a Pontida, poi. Il Borghese. A Pontida. Senti, è tornato lì, a tuonare le vecchie parole d'ordine. Senti. Lavoratori che si guadagnano col sudore della fronte il loro stipendio e non sono neanche lontanamente parenti con quei fancazzisti che io ho visto nei ministeri di Roma non fare un cazzo dal mattino alla sera. Bene. non si sentiva da tempo Borghezio così tuonare contro i fancazzisti ministeriali, no? Te lo ricordi? Era un po' assopito da questo punto di vista, perché sì, non si mancava in quella adorabile kermesse di Tony Buoni, un altro istigatore. Senti. Un altro. Vogliamo continuare a vederci fra di noi, fra la gente come noi, senza extracomunitari che ci rompano i coglioni, senza zingari, senza gente che viene qui non da ospiti rispettando le nostre tradizioni, ma viene qui perché un progetto mondialista vuole imbastardire la nostra etnia. Vuole imbastardire la nostra etnia. Io penso è dagli anni 30 che non si usa il termine imbastardire l'etnia. Poi dite che è tutto normale, vabbè. Imbastardire. Cioè, secondo te Borghezio in sostanza è come Hitler? Cioè, questo no, come dire. Hitler? Assolutamente. Beh, no, come un capo nazista. Perché cioè, non ha neanche quel potere lì. Ma imbastardire la nostra razza, diciamo, è un lessico che io non sentivo. Non vedevo, non ancora dagli anni 30 almeno. Oh, Salvini contro Bergoglio è un'altra cosa adesso recente. Hai sentito qualcosa di Salvini contro Bergoglio? Ho sentito Bergoglio, tutto, sì. Ho sentito che hanno fischiato Gad Lerner, che lo hanno anche insultato, che un giornalista libero come Gad Lerner non può andare lì, vabbè, perché ma altrimenti chi se ne fotte, lui dai. Giustamente ha fatto il suo lavoro, cioè. Poi ho sentito questa cosa che ha detto di Papa Bergoglio e di Papa Benedetto. Sì, cioè, tutto, nel senso sì. Che loro sono con Ratzinger ma contro Bergoglio, perché sì, dice no, che... ma non ha avuto neanche il coraggio di dirlo apertamente poi lì, in quell'intervista. Beh, no, almeno dall'audio che ho sentito io. L'attivista Gadlerno non l'ha detto. Per l'Islam da noi non c'è spazio. E lode a Monsignor Maggiolini, a Monsignor Biffi, a Monsignor Negri e a Papa Benedetto XVI, che l'aveva vista giusta, perché vedere un imam in chiesa mi fa pena. Vedere il tuo invasore in casa mi fa pena. È tradimento. Allora, per Salvini sono tutti traditori, Ciampi e pure Bergoglio in realtà, perché porta gli islamici in chiesa, no? Porta un imam in chiesa, vabbè. Grande segnale di distensione, bellissimo. Vabbè, ma non è che uno deve per forza dare segnale di distensione, eh? Beh, in un momento come questo, cioè, in cui scoppiano focolai di guerre, di odio ovunque. A proposito, ma c'è un paese nel mondo, sicuramente ci sarà, dove ancora si crede. Per esempio a San Gennaro, cioè oggi adesso arriveranno i napoletani che dicono Cruciani sei un pezzo di merda, eccetera, eccetera. Oggi si è consumato ancora una volta il rito della festa di San Gennaro, no? Sì, cioè il sangue si scioglie, lo scioglimento del sangue, sì, di San Gennaro. Però. Ma questo però che cosa, dai? Ma no, come a me si non fa mi dà nessuna a credere? Noia, anzi, come va si benissimo. Ma no, ma per carità, nemmeno a me, ognuno fa quello che vuole, ognuno può credere, che ne so, agli UFO, uno può credere anche. Beh, no, adesso quello è diverso, agli UFO, alieni, quelle... agli alieni, uno può credere anche alle scie chimiche. Cioè, siamo allo stesso livello, uno può credere anche a Bubù, uno può credere anche, che ne so, agli esorcisti, può credere al diavolo, può credere a tante cose. Cioè, tu pensi veramente che abbia un senso una cosa del genere? Non ha senso. Io, come sai, appartengo a un'altra parrocchia che ha altri usi e tradizioni. Sì, ma ho capito, ma... Se uno vuol credere al sangue di San Gennaro... Si è squagliato il sangue di San Gennaro. Bene, mi dispiace, non so se è una cosa buona o negativa, mi pare bene per loro, se sono contenti, va bene così. Cioè, non... cioè c'è ancora gente... Anche Cecchi Paone c'era stamattina. Signor Cecchi Paone. Lui, Cecchi Paone, è detto anche da qualcuno, non da me, che Capavone era lì dicendo che si era squagliato il sangue di San Gennaro. Ma ragazzi, ma come si fa? Visto. Ma come si fa a credere allo scioglimento, ma non lo so, ma per me uno del può sangue di San Gennaro? No, capito, ma non mi fa ho capito, male. Ma accade in Italia, accade a Napoli oggi. Cioè, non è che accade ieri, domani, nel Medioevo, accade oggi, nel 2016. Che persone vanno in chiesa e pensano che davvero si scioglie il sangue di San Gennaro, che quello prende sto sangue di San Gennaro, il Cardinal Sepe, e veramente questo qua si sciolga proprio quel giorno lì. Non ma si di scioglie. Cosa stiamo parlando? Ma, cioè, ma non lo so, ma ti dà così fastidio? Ma perché ti dà fastidio? Ma non mi dà fastidio, rido. Ma no, ma sei arrabbiato perché no, si scioglie il sangue, benissimo, no, scioglie il sangue, benissimo. Cambia il mio stipendio se scioglie il sangue di San Gennaro. Per ora no. O un domani, qualora dovesse cambiare, mi interesserò sì, anche non, il sangue di San ma Gennaro. Ma non ti interessa, cioè voglio dire... ti rendi conto che trattasi di follia collettiva? Ma no? Non mi inter- ma sono problemi loro. Ma non, va no, ho capito, ma uno potrà fare una riflessione su. Appunto, sono problemi. Hai detto sono bene. Problemi, sono problemi. Sono cose loro, sono credenze problemi, loro. Detto, va benissimo. Migliaia di persone credono in questo, fanno male a qualcuno, no? Commettono violenza, no? Sarà molto più violenta Radio Padania, no? Di questa roba qua. Vai, sarà dai, molto, dai. Anzi, sarà molto più folle Radio Padania. È uguale, di questa è uguale. Siamo allo stesso livello, dai. Ma che non. Ma che. Si è squagliato! Come si è squagliato? È ma vero? Ma non sentono a Milano, si è squagliato! Sì, sì. Ecco, e allora? Che chiamo, si è squagliato qua, che state a parlare qua? Si è squagliato, è viva San Gennaro! Nonostante ci fosse Alessandro, si è squagliato! Ha firmato il patto tra popolo e San Gennaro, si è squagliato! Tu capisci che siamo alla follia pura, no? Ti è squagliato? Cioè, va bene. Ma dai, su. Sono felici. Mi sembravano contenti, però. Dai. Se sono contenti per questo, va bene. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la zanzara. Non si potrebbe fare tutto traffico. La zanzara. A brucia. In camera ho la tua foto e quando mi sveglio te guardo, penso c'è qualcuno che fa più schifo di me. Allora ragazzi, vi è mai capitato di stare in aereo e di avere bisogno di andare a fare la pipì o la cacca? Parenzo, ti è capitato adesso? L'avrei sì. fatta, no? Sul volo che hai preso per Tel Aviv, o no? Sì, come lo sono 3 ore e qualcosa, quindi sono andato a fare la pipì, eh? Certo, ecco, sì, ma sì. Dove vai? Al bagno più vicino o al bagno tuo di pertinenza? Dove vuoi che vada? No, cioè, io in genere vado. Vuoi che sia sincero? Assolutamente, io in genere vado nel bagno della business. Perché? Anche se non sei in business? Sì, certamente. E nessuno ti dice nulla? No, nessuno mi vede, ho un aspetto talmente elegante che quando arrivo nessuno mi ferma generalmente. E quindi vado lì perché anche il tipo di insomma, mi piace di più. Ma, no, lì, ecco. Ecco, ma il bagno sarà uguale, no? Cioè, in cesso sarà uguale, che c'hai i cosi, il tappeto rosso, che c'è? È meglio la carta, ad esempio, tu sei amante dei dettagli, ti dirò questo. Uno ha la carta un po' più ruvida, diciamo, l'altro ma invece c'è... Ma non è vero, no? Sì, ti assicuro. La carta più morbida, se vuoi ti racconto un'altra tradizione, ad esempio, quando sono fuori per viaggio, sì, per turismo o anche per lavoro in grandi città, generalmente, e se mi capita di fare qualche bisogno di qualunque natura, generalmente io vado negli alberghi, nei bagni degli alberghi a 5 stelle, cioè li seleziono con l'app, sì, assolutamente, perché là ci sono i bagni, diciamo, perché là ci sono spazzosi, bagni molto puliti intanto. Poi hanno queste salviette calde solitamente, che quindi quando tu ti lavi le mani, perché io me le lavo costantemente, io quasi mai, se me lo scordo, lo sappiamo, infatti lo sappiamo, e ogni volta che tu mi lavo le mani mi piace avere il panno quello caldo, ecco, quindi sì, io di solito mi scordo anche di lavarmi le mani dopo aver fatto la pipì, so che è una usanza, una cosa che si usa fare, no, normalmente di solito si usa, sì, in genere si usa nelle società arretrate, certo, no, sì, è vero. Nelle società evolute, società arretrate si usa molto questo, ad esempio all'epoca dei Flintstone nell'età della pietra si usava anche proprio non pulirsi per dei mesi, ma infatti voglio dire l'Homo sapiens però perché ti ho parlato libri, perché ecco, ti ho parlato della questione dei bagni degli aerei. Infatti, perché? Ho risposto come no, perché perfettamente. Molto onestamente. Cosa è successo a Sgarbone nostro? Cosa è successo a Sgarbone? Ha preso, stranamente, perché di solito gli aerei non li prende mai perché viaggia sempre in macchina, no? Sì. Sgarbone nostro ha preso un aereo della Swissair. No, ottimo, un'ottima compagnia, credo. Ottima, elegante, mi pare buona. La Swissair, secondo Sgarbi. Cioè, praticamente, cosa è successo? È andato, era in quarta fila, è andato a pisciare o a cagare, non lo so, credo a cagare, e nel bagno della prima classe. Ma perché questa notizia è di interesse pubblico? È incazzato come una bestia, perché è una cosa che fanno tutti cagare, come sai, ed è una cosa che fanno tutti prendere l'aereo. Le due cose ogni tanto vanno insieme, cioè pisciare, cagare e prendere l'aereo. E ti può capitare che qualcuno ti rompe i coglioni perché non vai nel bagno di tua pertinenza. A te non è accaduto, perché vai in business e nessuno ti dice niente. A Sgarbone sì, ed è incazzato con la compagnia elvetica, la Swissair. Ho fatto pochi passi, sono andato nella toilette e mentre stavo serenamente cacando e anche con una certa concentrazione e per un tempo medio lungo, a un certo punto, come i nazisti che arrivavano a prendere gli ebrei, bussando alla porta in questo modo, lo steward hostess parlava il suo francese chiedendo... Non capivo bene che cosa, volevo aprire per mostrare che stavo cacando e far capire che mi lasciassero finire. No, ancora! Hanno bussato alla porta come i nazisti. Mamma mia. Senti, senti. Il paragone è un po' esagerato. Senti, senti. Finisco, mi pulisco il culo in un cessullo modestissimo, non che avesse la caratteristica di un cesso di lusso per super prima classe. Era un cesso stretto e esco e vengo quasi malmenato dai due steward che mi dicono: lei non poteva andare in quel cesso. Dico: scusi, e dove è scritto che non si poteva andare? No, perché la quarta fila deve andare a fare i suoi bisogni in fondo. Guardi, non c'è credo da nessuna parte, dall'altra parte io stavo finendo. No, no, no, lei doveva uscire, questo non era il bagno suo. Con un'aria prepotente e addirittura spingendomi, che io fortunatamente non ho reagito, dice: guardi, se lei alza la voce chiamiamo la polizia. Col cazzo la polizia! Balordi! Vergognate! Uno cacca e l'altro bussa per farti uscire perché ha bisogno di dirti che quello non è il cesso giusto, un cessetto miserabile. C'è merda di prima classe e merda di seconda classe. C'è cacatore di prima classe e cacatore di seconda classe. Un risultato lo hanno ottenuto, che io non prenderò mai più un volo Swissair. Non solo dice questo, ma dice anche: invito tutti a non prendere più la Swissair. A me non me ne frega un cazzo, chi la Swissair la prendo, forse l'avrò presa una volta in vita mia e nemmeno quello. Ma insomma, ti pare normale a te una cosa del genere? Uno va a bussare lì per dire: lei non deve stare qua, uno sta cagando. Non mi pare normale tutto il racconto, a me, francamente. Perché no, quello era, andare, era in quarta fila invece di andare sì, 36. No, è una regola un po' strana effettivamente, che dai, uno deve su, andare nel bagno dietro. Eh sì, ma che c'è, il cesso di prima classe e di seconda classe? Ma che c'è? Cioè... Vabbè ragazzi, Patrizio, provincia di Milano, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Volevo solo dirti una cosa veloce, visto che stavi parlando del presunto miracolo di San Gennaro. Sì, ma è allora, tutta una farsa, ma ragazzi, no, ma pensate, farsa. Ma è una farsa sì, ma infatti, assurda, guarda, dai, cioè è una commedia. Ti voglio dire solo questo, io sono chimico di laboratorio, sì, quindi ti posso dire che quella sostanza è una sostanza cosiddetta fisotropica, che gli alchimisti del 1100 erano già in grado di preparare, sì. Si tratta di carbonato di calcio, cloruro ferrico, che sono sostanze, sì, che allora si reperivano sottoposte ad osmosi. Vabbè, l'osmosi, adesso non allora scendiamo nei particolari. Si faceva con il budello degli animali. Sì, ma come funziona lì? C'è un sangue finto? Come funziona? No, non è un sangue finto, il cloruro ferrico, diciamo che è rossastro, come dà la colorazione del sangue. La sostanza fisotropica vuol dire che si vabbè, insomma, ragazzi, non è solido. Sangue, non è sangue. Non è sangue, non è sangue. Ci vuole tanto per dirlo, non è che devi fare il professore qua. No, però bisogna dire come mai, qual è la spiegazione scientifica? La spiegazione scientifica è questa. Ecco. Cioè al contatto con che cosa si squaglia? Allora si presenta allo stato solido, appena gli dà energia con le mani, col calore delle mani, col vabbè, ma come i giochi dei ragazzini in pratica, cioè come i giochi dei ragazzini, cioè una cosa solida che poi si squaglia. Vabbè, esattamente. Va bene, Gabriele Napoli, Gabriele, vai. Gabriele. Buonasera, voglio parlare dello stesso argomento. Io penso, o sono ateo, sì, quindi sono ateo e non credo ai miracoli, e quindi non credo neanche ai miracoli di San Gennaro. Se credi ai miracoli, la guarigione, eccetera, devo credere pure a quello di San Gennaro, non è che il miracolo di Napoli non lo devo credere. Io sono un chimico, non so se il signore che ha parlato prima è chimico. Ci sono tanti studi che confermano lo scioglimento del sangue e tanti studi contrari. Ragazzi, ma quale sangue che si scioglie? Ma non diciamo cazzate. Per me, non ma quella è la fede, è una tradizione, sai, che va avanti da centinaia di anni. Certo. Non è su questo ha ragione questo signore. Ma ho capito, ma se tu vuoi credere agli UFO va benissimo. Non sto parlando per me. Allora io credo ai miracoli, quindi credo ai miracoli. Tu credi ai miracoli? Tu credi ai miracoli? No, io sto parlando in generale. O non credo ai miracoli e non credo a nessun miracolo, non è che certi miracoli vabbè, credo, fermo a lì, quelli di Napoli non ci credo. Ho capito, fermo lì. Non scordatevi il numero del cuore, 393-71-71-701. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Signore e signori, facciamo un applauso alle più grandi teste di cazzo del paese, Cruciani e Parenzo. Grazie. Grazie. Allora, è pieno di amici nostri, caro David, agli arresti domiciliari. E abbiamo amici ai domiciliari. No, io a non partire dal signor Vassallo, te lo ricordi? Beh, alla fine è diventato anche un mio amico, compagno Vassallo, di avventure. Vassallo, che è il vegano Vassallo. Sì, esatto, vegano. Ma figurati se è un amico quello lì. Vabbè, sì, insomma, abbiamo compagni di avventure. È un poco di buono quello lì. Comunque, un poco di signore, buono. Ai domiciliari. È stato mandato ai domiciliari. Prima quello. Il secondo è il signor Antinori. Beh, amico mio, aveva l'obbligo di dimora a Sabaudia. Sì. Obbligo di dimora a Sabaudia. Sì, che è un provvedimento anche leggero. Poteva stare a casa, circolare a Sabaudia, però lì doveva rimanere, diciamo, nel circondario di Sabaudia. Sì. E invece sì. Il professore che ha fatto? Si è fatto pizzicare, non so da chi, dalla finanza, dai carabinieri a Roma un paio di volte. Puff, rimandate i domiciliari a Roma. Non prima, però, di aver dato dalla puttana, non si capisce a chi, sia alla D'Urso oppure alla moglie. Sì, sì, l'altro giorno, per questo te lo faccio risentire, perché venerdì ero in collegamento con la D'Urso, col professor Taormina, il suo avvocato. Ma perché non se ne sta buono 5 minuti a casa, tranquillo, a leggersi un libro, anziché andare in giro a pontificare, senti, a dire senti, cose? Senti, il professor Antinori non può non parlare. Tra pochissimo andrò anche a casa del professor Severino Antinori, sapete molto bene quello che gli è accaduto, è stato in carcere, è stato agli arresti domiciliari, stamattina c'è stato un processo a suo carico per stalking, che non c'entra niente peraltro con il furto di ovuli dei quali era stato accusato. E che lei mi ha detto il falso, capito? Questa puttana, capito? Oh, fermi tutti, io credo che non si renda conto che forse era in diretta. Non si capisce se è dato dalla puttana alla D'Urso, che avrebbe detto il falso, oppure se è alla moglie, magari, no? Che ha detto il falso, o alla figlia, perché c'è. Ha dei contenziosi con la figlia e con la moglie. C'ha dei casini quello lì, dai, in famiglia, una cosa incredibile. Non è una famiglia un po' serena quella, mi pare. Beh, vabbè, no, poi è data la puttana alla moglie. Ma dai, una cosa incredibile. Vabbè, se è data la puttana alla moglie, date la puttana alla moglie, che vuoi fare? Cioè, no, perché te. Senti, il PM vada in galera. Poi pure dalla D'Urso ne ha dette di tutti i colori, Non ci sarà questo processo, Taormina. Ha detto esatto. Taormina, la vuoi finire, la vuoi smettere o ti vuoi alzare? Sta parlando. Ti invito ad alzare, Taormina. O rispondi, cioè, il processo non ci sarà, o altrimenti io mi alzo e me ne vado. Tu, Taormina, devi dire che il processo non ci sarà, perché non ci sarà, lo sai, e devi dire che ho chiesto 20 milioni allo Stato italiano, e devi dire anche che sì, signor Renzi... Sì, le conseguenze. Allora, c'è una scusa se e dica che voglio la responsabilità civile del PM. Voglio che il PM mi dia il suo stipendio. Voglio che il PM vada in galera quando me. Voglio che la Ripamonte vada in galera quando me. Voglio che il PM vada in galera. Se sono innocente, deve andare in galera anche lei. Ma scusa, ma litiga con Taormina. Tu devi dire, ma il suo legale, deve fidarsi del suo legale, scusa. Deve fidarsi di quello che comunque, dice il suo legale. Ma ti rendi conto insieme, Taormina e Antinori? No, ma cioè infatti, insieme, c'è il gatto e la volpe insieme. Ma che esplosione. Ma neanche nel peggior film dell'orrore, secondo me, ma è una cosa incredibile. Stavo per leggere, non mi interrompa più perché sennò a questo punto diventa maleducato. Stavo per leggere, dopo averla salutata, stavo dicendo. Lei maleducata non può diventare lei. Io non dico maleducata, che lei offende i miei genitori, potrebbe diventare ineducato. Vogliamo no, parlare della sostanza? Impari o no? Un po' l'italiano. Maleducata di mio. Stavo per leggere, caro avvocato, so che lei mi sta comprendendo, sta comprendendo molto la mia pazienza. Ineducato, non maleducato. Professore, Severino, guarda la pazienza, tanto lei. Professore, lei comanda lei. Faccia spiegare i fatti, altrimenti. Avvocato, lei fa l'avvocato che io ho domandato io, ha capito? Sì, sì, ho capito, però le voglio dire che siccome si sta cercando di capire di che cosa dobbiamo parlare in questa sede. Ha detto nel titolo che sono stato condannato. Avvocato Taormina. Ha detto nel titolo che sono stato condannato. Litiga con Taormina. Ma perché litiga con Taormina? Si aspettava che attaccassi di più Taormina, vuoi bene. Aspetta, Taormina sta in televisione, scusa. So io che ti pago, capito? So io che ti pago, so io che ti ho nominato. non ci sarà mai più nessun processo per Antinori. Viene ancora agli arresti. Allora, no, mi avevano detto che a novembre ci sarà un processo. Laurina, rispondo io. Mi ha detto l'avvocato, così io non avrò nessun processo. Scusami, Severino. C'è stato certamente un grandissimo contestazione, ma non in via giudizio, non causa. Bisogna dare atto. Io non ho mai fatto la era allora, diciamo però, allora mi fai parlare la ginecologa di Milano, Alessandra Kusterman, fammi parlare. Mi fai parlare. Ma perché litigano tra di loro? Una cosa incredibile. Vabbè, dai, andiamo dove dobbiamo andare. Clemente, provincia di Roma, dai. Clemente, iniziamo parecchio. Clemente da Roma, mica provincia. Clemente da Roma, va bene, Clemente, dai. Dai, senti, io vorrei riagganciare la storia dell'altra settimana di Paolo Di Canio. Che vuoi dire ancora? Razziale, ma se c'è una cosa di buono è proprio il tatuaggio Duce sul braccio. Perché ti piace il tatuaggio Duce? Perché Mussolini è stato il più grande statista, ma anche l'unico politico onesto che abbiamo avuto in Italia, no? Parenzo, pensaci tu, dai. Pensaci tu, dai. No, è la verità, perché io ricordate che quando hanno messo a testa in giù, chiama questo qua? Da quella che non è cascato manco un centesimo. Cioè, è difficile che avesse... Clemente, è difficile, è il capo dei ladri al governo, per forza. No, Parenzo, tu devi sciacquare la bocca. Il capo dei ladri, il capo dei ladri era il governo, per forza. L'altra settimana c'è avuto il coraggio di dire che George Soros è un filantropo. Beh, il più grande filantropo. Uno dei più grandi filantropi è stato fermi tutti. Allora, Clemente, io non ho capito come fai a dire oggi. Tanto Clemente non mi pare Clemente per niente. Oggi che Mussolini è stato il più grande statista, signor Mussolini. No, certo che lo dico. Beh, anche perché se proprio vogliamo dirla, poi tutto quello che è venuto poi non mi sembra, insomma, che passerà sui libri di storia, no? No, secondo te Mussolini è stato un grandissimo statista? La dittatura gli è piaciuta. Vabbè, dai, a Clemente piace però, la dittatura. Ma io ti dico anche una cosa, cioè, per esempio, accodarsi al nazismo, accodarsi alle leggi razziali è stata una grandissima strozzata. Sì, accodarsi ma non è l'unica, la sola cosa. L'omicidio Matteotti, ma di cosa discutiamo? Il professor Clemente, povero imbecille di Clemente, i miei nonni durante il fascismo, caro imbecille di Clemente, i miei nonni durante il fascismo sono dovuti scappare in Svizzera perché altrimenti finivano in un campo di concentramento. Hai capito? Imbecille di un Clemente, cretino di un Clemente. Come ha detto? Scusi, come ha detto? Dice che sono scappati in Svizzera a portare i soldi. Faglielo ripetere a lui. Come ha detto? Saranno scappati in Svizzera a portare i soldi. Come ha detto? Questo ha detto. No, voglio sapere cosa ha detto. Non ho sentito. Scusami. Ma che fa? Incesenti. No. 19:26. Avvocato. Cosa ha detto lei? E poi ripeto. Che ha detto il fascista della radio, vediamo se ha il coraggio di ripeterlo, forza, lo ripeta. Io tanto non c'ho una lira. Non è la lira, è la condanna e basta. Non voglio soldi da lei. Voglio che finisca in galera lei. Di che cosa ha detto? Può ripetere? Si ha coraggio? Il coniglio fascistello alla radio. Alla radio leone nella vita coglione. Alla radio leone nella vita coglione, Clemente. Alla radio leone nella vita un coglione. Fermi, Clemente, però. Sei un coniglio. Fermi un secondo. Allora, Clemente, devo dire che questa tua difesa assurda del Duce, eccetera, non la condividerebbe nemmeno Di Canio, che tu all'inizio volevi difendere, te lo dico subito. Lascia perdere la cosa storica che non ci interessa. Il discorso delle leggi razziali è stato una grandissima. Vabbè, Clemente, ciao, adesso qui non è la storia. Dai, Ignazio, Napoli, dai, Ignazio. Coniglio. Ciao, senti, ma come si fa a dare spazio a questi personaggi sul fascismo? È una melassa tra Lega e fascismo che è una cosa incredibile, non è tollerabile. È una parte d'Italia, noi diamo voce a tutti, vai, parli anche tu, per cui qualche problema c'è. Dobbiamo anche ricordarlo che sono state le leggi razziali. Vabbè, ma stai parlando anche tu, fai parlare anche gli altri. Tu che cosa devi dire? Ma d'accordo, ma un momento, qua si offende la memoria storica. Va bene, Ignazio, si offende la memoria storica. Qualcuno ha offeso la memoria storica, se qualcuno si indigna, quereli questo Clemente, chi se ne frega, dai, Ignazio. Senti, volevo dirti, se posso dire dire un cioè, non è che possiamo diventare la, materiale per i tribunali ogni puntata noi, Ignazio, dai, dimmi. No, volevo dirti riguardo al problema di San Gennaro, va bene, volevo, cioè, non si può affermare tranquillamente come hanno fatto i due chimici che il fenomeno di San Gennaro è solamente... Perché tu pensi veramente che il sangue si squaglia allora, o proprio oggi? No, no, un momento, dai, su, ci Ignazio, sono stati autorevoli ematologi, no, autorevoli ematologi, dai, autorevoli ematologi. Che è chiuso nella teca è sangue umano, che poi si verifichi questo fenomeno che si scioglie, è una questione che di credere o non credere, un atto di fede. Vabbè, ma uno però può credere a tutto, tu si può credere, momento, ma, si può credere anche a Pinco Pallino, si può credere a San Gennaro come se fosse un fatto medievale oppure no, e che cos'è invece? Una cosa moderna, una cosa moderna. Che cos'è? Cioè, che cos'è? La scoperta l'iPhone 10, che cos'è? È un fatto storico popolare. Ma uno può credere a quello che vuole, tu puoi credere a San Gennaro, ai miracoli. No, ma bisogna rispettare, bisogna rispettare. Ma io almeno non c'è questione di non è questione di rispettare. Se tu credi a San Gennaro, benissimo, a San Gennaro, non mi puoi far pensare che sia una follia o no? Per me è una follia, ma non San Gennaro, la fede in San Gennaro, figuriamoci, ma ognuno fede, ognuno crede a quello che vuole. Il fatto che il sangue si sciolga oggi, dai, su, amico mio. Voglio Di Canio, direttore di Rai 3. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Ieri sera mi sono sognato che io e David Parenzo andavamo insieme in Austria, io e David. Ma com'è possibile? Ma David è astemio. Questo è il karma quotidiano. Effettivamente non è possibile che tu vada in Austria insieme a Carmine da Roma. Mi sembra un'ipotesi molto lontana penso dalla realtà. Penso sia più facile che mi converta all'Islam come ipotesi che vabbè, io possa frequentare. Però non frequentare... sei lontano dall'Islam tu, no, perché sei accogliente. Tu sei uno di quelli che pensa che l'Islam sia cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. No, cioè tu pensi che l'Islam sia, una religione buona, buona religione buona. Non esistono religioni buone e religioni cattive, esistono persone buone e persone cattive e che usano la religione. Cioè, tu non pensi che l'Islam dentro di sé abbia degli elementi di violenza? Non, non lo in pensi. Quanto Islam, non in quanto esiste l'Islam non radicale e l'Islam politico, non quello è così sicuramente violento. Che tu ti avvicini all'Islam, non è così difficile. Ma sembra che caeta, io sono ebreissimo, non me ne frega niente. Austria, in Austria a puttane col Carmine non ci vai. No, posso confermartelo. Glielo puoi dire, ma non, non voglio neanche parlare con quello lì. No, ma su, non povero mi interessa. Carmine, guarda. Arrivato ai 40 anni, mi ha detto sempre il mio cardiologo, che anche lui devi mi raccontava. Devi scegliere con chi parlare. Bravo. Sì, però in questa trasmissione non puoi. Esatto, questo è il punto. Esatto. In questa trasmissione non puoi. Però puoi, come dire, evitare conversazioni con personaggi No, è questo. Non abietti. Puoi. Comunque ti faccio un po' ribollire il sangue con il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma. Allora, Pellegrin dice a proposito di Ciampi. Iniziamo con Pellegrin, dai, conduttore di Radio Padania, per chi non lo sapesse. Dice di Ciampi che in sostanza celebrare Ciampi, oggi sono stati funerali. Sì. Beh, la mafia non l'avrebbe fatto. La mafia non l'avrebbe fatto. Dunque, è più nobile dello Stato che celebra uno che ha portato lo Stato al dissesto. Perché sai, c'è questa polemica su Ciampi che ci ha fatto entrare nell'euro. Un eroe civile. Vabbè, non esageriamo, dai, voi due esageri sempre. No, un eroe civile. Un azionista, un partito d'azione, partigiano, grande governatore della Banca d'Italia. Un eroe, un classico uomo di Stato, un grande eroe di Stato. Vabbè, comunque, Pellegrini. Io ribadisco comunque che credo che la mafia non sarebbe così folle da celebrare un suo mamma santissima che avesse fatto perdere 63 mila miliardi di lire. Domani c'è il giorno di lutto nazionale nei confronti di un signore che ha fatto perdere a noi, perché noi siamo lo Stato, 63 mila miliardi di lire. E lo sta celebrando, lo Stato italiano, come un grande. Cioè, capito qual è la tesi? Domani era tesi. Oggi, no? Cioè, la tesi, insomma, la tesi. La cioè, tesi. Ho capito, ma è quello il che rutto, dico. Questo va chiamato. Dai, il rutto. Sì, come si può chiamare? Dice, siccome ci ha fatto perdere il un sacco di soldi. Movimento di stomaco, chiamatelo come vi pare. Siccome ci ha fatto perdere meteorismo. Quella radio produce, ecco, te lo voglio dire. No, io dico meteorismo. Sì. Produce solo produce meteorismo. Comunque lo sai che meteorismo ti dico? E rutti. Che Pellegrini non è che la pensa diversamente da Salvini, Cioè, Salvini lo dirà in maniera, dice, traditore, è lo stesso ceppo. Cioè, sentire questa gente sarebbe qua è la bocca sentire questo tal Pellegrino, sono anche come si chiama, si dovrebbe sciacquare la bocca a nome di Ciampi. Parlare di Ciampi, sì, questo Pellegrino che parla di Ciampi è un po' come sentire Totò Riina che parla di legalità e di giustizia. Cioè, sono mondi talmente antitetici che non possono avere nulla a che fare. Cioè, con Pellegrino che autorevolezza ha per parlare di un uomo di Stato come Ciampi? Non è che uno Ciampi può parlare solo se è autorevole, dai, su. Comunque, Ciampi, proseguiamo. Un uomo... proseguiamo, Radio Padania, vai, vai, ascoltatori, vai. Io non lo rimpiango il signor Ciampi, ha creato un sacco di guai agli italiani e guardate che mi viene di sospetto anche che questa infame invasione che abbiamo dall'Africa sia sempre frutto di quell'accordo sul Panfilo Britannia del 92. Quindi il signor Ciampi ha tace l'anima sua, ma non è un grande italiano, come ha detto Salvini è un grande traditore degli italiani. Relativamente alla morte di Ciampi diranno che è morto un altro grande statista, uno dei padri della patria, tutta una serie di cose, si dimenticheranno di dire che quel signore lì è costato allo Stato italiano, cioè a noi, la modica somma di circa 100 milioni di vecchie lire al mese di pensione. Se la prendono con la pensione di Ciampi. Poi senti questo, senti questo. Pronto, ciao Bruno, a Brescia, parla di libera successione. Sì, prego. Sai, si rispettano i bambini e i morti, dicono, ma Ciampi ha rispettato il mio conto corrente quando ho preso dei soldi per fare il famoso spreco del denaro pubblico. Adesso deve passare a miglior vita l'altro, il grande napoletano. Speriamo che questo buon Dio ci ascolti alla svelta. Grazie, 0266203529. È bello come... uno come... ha augurato la morte e quell'altro come se nulla fosse. Chiamate il numero 02. Guarda che ormai è l'abisso umano proprio. Sì, dice ma vai a morire ammazzato, maledetto, il prossimo che deve morire è napoletano. Grazie del suo contributo, 02444 Padania Libera. Ma dai ragazzi, ma è un mondo ormai... Senti questo che dice che ha una tutto... scorta di 16 uomini. Ma siamo ubriachi. Presidente Ciampi, che ha avuto dal momento in cui è andato in pensione fino al momento della sua morte una scorta di 4 uomini davanti al suo appartamento che montavano turni di 6 ore, quindi una squadretta da 4 persone, 16 persone impiegate per fare la scorta a un pensionato della Repubblica. E la signora Franca si recava spesso al mercato di Piazza Grati accompagnati dalla scorta. Che ci ha reso schiavi. È incredibile. È che io non lo so se c'era la scorta, non c'era la scorta. Ma che non lo c'entra? So, ma che è l'ex, un ex capo di Stato? Ma che vuol dire? Ma meglio quei soldi a lui piuttosto che a Radio Padania? Ma che scherziamo? Dici, meglio i soldi della scorta a Ciampi che i soldi vita, dello ma Stato a Radio Padania? Ma scherzi, ma cosa fa? Qual è il contributo di Radio Padania se non quello di creare semplicemente odio e far parlare degli ubriaconi? Ecco, sì, forse quello. Quello di prendere degli ubriachi e anziché tenerli per strada, che costituiscono un pericolo per tutti, li fanno parlare alla radio. Cioè, tu questo dici, è un servizio. Un servizio, diciamo, quasi di prevenzione. Così, prevenzione, servizio sociale, dice l'ubriaco, dov'è? Meglio che stia chiuso in casa al telefono con Radio Padania o che sia per strada? Meglio a quel punto in casa. Va bene, Elena, Roma, vai. Elena. È pronto? Dimmi, Elena, dimmi, che c'è, caro? Senti, io sono una ipovedente. Devo, sei ipovedente, vabbè, per carità. Ti ho ascoltato da anni. Sì, quando sì. Tu ti davano del tu, tu dicevi che... io mi ho mangiato con te. Siamo cambiati un po', allora? Niente, sei un simpaticone, ma rispondi male. Rispondo male. Adesso non ti fare rispondere male. Cosa desideri da noi, cara Elena, questa sera? Che quello prima parlava di Mussolini. Mussolini ha fatto del bene. Eccola. Questi ci ammazzano più di Mussolini. Eccola là. Ti stanno ammazzando tutti i governanti. La nonna della Repubblica Sociale pure. I magnacci, perché sono tanti. Sì, ma io non ho capito una cosa. Tu sei fascista? No, no, io ho detto solo che... Meglio Mussolini di questi. Mussolini, sì, ero, ma adesso sono di Renzi. Chi mi aumenta la pensione, morireranno tutti. Chi mi aumenta la pensione, voto. Chi ti aumenta la pensione, voto. Ma che c'entra Mussolini con questo? Scusa, spiegami. Niente. Comunque, Mussolini, io sono stata una... Sì, ma che c'entra Mussolini? Nonnina mia, nonnina mia, mi ascolti, adesso il tempo è scaduto, ma mi sono rotto i coglioni. Sono fermato 2 giorni che non, e già mi avete fatto arrabbiare alle 19.43 del primo giorno della settimana. Dimmi. L'anno è lungo, ma avete rotto le palle. Cara la mia nonnina, mi dia retta. Prenda, sono già alle 19.43, prenda il plaid, se lo metta, si metta la flebo, mangi la sua minestrina e si riguardi l'Istituto Luce e si riguardi i comizi del Duce a casa sua, ma non romba le scatole alla radio, capito? Mangi la minestrina, la minestrina che ha la pastina, il semolino, così. Quando c'era il Duce, le cose funzionavano. Quando c'era il Duce, quando c'era il Duce, le cose funzionavano. Metta la copertina, nonni. Metta la copertina. Torni a letto, nonni. Mamma mia. Questa ragazzi. È la numero uno, scusa. Ma fanculo, mammicchi, sarai tu. Ma scusa, nonnina. Quanti anni hai? Mi dispiace. Per Cruciani. No, ecco, perché ma che c'entro io adesso? Io voglio bene. Il bacio della morte gli ha dato. L'autorevolezza, il bacio della morte. Scusami, Elena. Il bacio della morte. Elena. Elena, amica mia. Che ne pensi di Parenzo? Tappo? Perché gli hai detto tappo? Perché gli hai detto la nonnina fascistella? Perché gli hai detto tappo? Perché brutta è tappo. Cioè, sarà bella lei, sarà bella la nonnina della Repubblica Sociale. Sarà bella. Molto bella la nonnina. Mussolini. Ma io non parlo di Mussolini. La nonnina di Mussolini. Loro ci stanno ammazzando di fame. Chi? Più di Mussolini. Ma loro, chi? Ma, ma di chi parla? Ma di che cosa parla? Dei ladri del governo. Dei ladri del governo. Ma torna a fare la calzetta, nonnina. Su, ma di che si occupa? Dai, ma torna a fare la calzetta. Parenzo. Ma chi è lei per telefonare a una radio anziché starsene a mangiare il semolino a casa? Che fa? Che dice? Ma magnatelo tu, mamma mia, che se magna lei? Amatriciana, che se magna? Non me magno, amatriciana, sono una bella donna, non me magno la patrigiana. A spese mie, ma ancora in pensione a spese mie. Ma lo mandi a fare in culo, Elena, lo mandi a fare in culo. Ma prende la pensione lei, signora? Culo. Ah, nonnina, la nonnina educata, cresciuta. Senti, bellissimo Davide. È educata sta signora anche. Dove è cresciuta lei? Educata, vedo. Parenzo. Eccolo. Te educata. Voglio bene, anche se mi hai detto nonnina. Te voglio tanto bene. La nonnina della Repubblica Sociale, come la devo chiamare? Niente. Ciao, voglio Elena. Un po' di vita allegra. Ciao Elena, ciao. Vabbè. Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. La zanzara. Allora, parliamo di qualcosa di concreto, caro Davide. Sì. Dopo l'intervento mirabolante della nonnina Elena, è successa una cosa incredibile, credo, nel weekend, in un paese che si chiama Nicotera. Nicotera, sai dov'è Nicotera? Calabria, nella famosa non lo so. Calabria Saudita, perché bisogna chiamare le cose come sono, cioè col loro vero nome. Ogni tanto qualche paese italiano sembra appartenere ad un altro mondo. Sì, a un mondo lontanissimo, ma ti pare possibile che ancora oggi esista un paese dove uno sposo pare il nipote del boss? Atterri con l'elicottero, insieme alla moglie, alla futura moglie nel giorno del matrimonio, atterri in una piazza centrale di un piccolo paese di qualche migliaio di anime e tutto il paese è bloccato. Chi ha dato i permessi per atterrare? Sembra una cosa tipo quella roba dei Casamonica. Per carità, ognuno si sposa come vuole, no? Ognuno organizza il proprio matrimonio come vuole, però un comune dice no, amico mio, qui però con l'elicottero non atterri al centro storico del paese, il permesso non te lo do. Il sindaco dice, beh, sono stati gli uffici tecnici, io non c'entro niente. Come non c'entri niente? Che fai, non comandi? E poi tutto il paese è bloccato. Perché tutto il paese è bloccato per il matrimonio del nipote del boss? Vabbè, chiamiamo il sindaco, va, questo si chiama, come si chiama? Pagano, cucinatelo anche un po' te però, Davide, te lo vuoi cucinare? Dai, certo, sono qua, pronto, ascolta, sono pronto. Chiamiamo, vai. Dai. Sì. Sì, buonasera, stavo cercando il sindaco. Sono io, chi? Ah, salve, buonasera sindaco, qui Cruciani, Radio 24, salve, buonasera. Come andiamo? Che vuole sapere? No, voglio sapere questa cosa. Allora, è possibile mai che lei dica i permessi per questo elicottero l'ha dati l'ufficio tecnico, io non c'entro niente? Allora, io ho trasmesso la richiesta. La richiesta? La richiesta inoltrata, inoltrata da una società che opera nel settore dei voli. Sì. All'ufficio competente, io non ho le competenze. Cioè il sindaco non c'entra niente in questa cosa? No, guardi, come se lei mi vuole tirare per forza dentro. No, dire, la domanda è una domanda, il sindaco c'entra, c'è... La richiesta che è pervenuta al comune è pervenuta da una società. Da una società che vabbè, ma qualsiasi senso... tipo di società chiede una cosa e il sindaco, siccome c'è la piazza del paese. No, non ce l'ha chiesta per la piazza. E perché c'è cosa l'ha chiesta? Ce l'ha chiesta per atterrare al campo sportivo. Presso la struttura sportiva che è recintata, che offriva. Cioè, vi hanno fregato? Lei sta dicendo che vi hanno fregato? Allora, non che no. Guardi, allora, ascolti. Non, sì. Io non dico che ci hanno fregato, io le dico quello che risulta dagli atti. Lei però, scusi signor sindaco, mi risulta un po' complicato, adesso veramente lo dico con calma, mi risulta complicato pensare che lei, il sindaco di un piccolo paese come Nicotera, non sappia, primo, che si sposava un signore che si chiama Nino Gallone, e lasciamo perdere quello che è e quello che non è, secondo, che il matrimonio si svolgeva in quell'area, terzo, che un elicottero portava gli sposi proprio in quell'area. Lei non sapeva nulla. No, allora, quello che lei sta dicendo è stato accertato e verificato successivamente. Cioè lei non sapeva nemmeno del matrimonio? No, il matrimonio che c'entra, ma non sapevo che l'elicottero doveva portare lo sposo da qualche parte, o comunque che l'elicottero doveva atterrare lì, perché nella richiesta non vi era specificato che cosa serviva. Ma scusi, era chiuso però quella parte di centro, come mai era tutta chiusa? Anche qui il blocco della viabilità del traffico veicolare non era stato autorizzato dal... E chi l'ha bloccato? E chi l'ha bloccato? Non lo deve dire a me, lo deve accertare la magistratura. No, ma scusi, lei non è il capo della polizia municipale, è la polizia municipale che ha bloccato tutta l'area, o no? No, quale polizia municipale? E che se la sono bloccata da loro? Lo deve accertare l'autorità giudiziaria. Cioè, ci sono persone che si permettono di fare il proprio comodo nel suo paese e lei non sa niente. Ma guardi che la magistratura e le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini sul caso. Ho capito, ma chi comanda in questo paese? Lasci stare, sindaco, professore, scusi, sindaco, mi scusi, sono Parenzo, buonasera. Senza, come dire, incorrere in arrabbiature, in toni di voce che si ha. Senza incorrere in arrabbiature, in toni di voce che si alzano, in offese gratuite, nulla di tutto questo. Quindi con calma, le voglio soltanto chiedere questo. Lei è il sindaco di questo paese? Sì. Sì. Quanti abitanti ci sono in questo paese? Quanti abitanti residenti? 6.500. Bene. Lei, mi pare di capire, detto con il rispetto per le autorità politiche, non conta un cazzo. Ma lo dico con, come vede, con la voce anche bassa e dimessa. Cioè, non sono 2 milioni di abitanti, 6.500 animelle buone per la maggior parte, credo. A parte questa famigliola, poco, come dire, con pochi lustri. Mi pare che in questo paese lei abbia poca presa. Io ho detto prima, non conta un cazzo. Infatti ho ricevuto, ecco. Ho ricevuto anche un attentato, mi hanno sparato 47 colpi di Kalashnikov dopo 7 mesi che sono stato eletto, a ragione, non conta nulla. Questo è brutto. Come non conta nulla? Perché non conta nulla? Sì. Se dovessero ravvisarsi la responsabilità di chi parla responsabilità giudiziarie, dal punto di vista politico lei, allora, ma io capisco, guardi, come si sente anche lei offeso, immagino, no? Certo, ma se lei non mi faccio la vittima di quello che è accaduto sono io, la mia città e la mia comunità, ma se lei prende atto di questa cosa qua, per carità, poi magari lei è semplicemente una vittima, anzi sicuramente, come dice lei, è una vittima, prende atto, nella sua città c'è qualcuno che riesce a sposarsi e a chiudere con l'elicottero e a chiudere il centro storico senza che lei possa fare nulla. Infatti su questo sta indagando la magistratura. Ma che deve dire? Però uno che non ha il potere sulla società piglia e se ne va, o no? Ma il potere non ho che il potere di andare ad arrestare o a mettere in galera tutti i... Mentre si sposava questo qua, lei che faceva? Mentre questo qua si sposava, atterrava l'elicottero. Io ero qui allo studio a lavorare. No, ma si è reso conto di quello che accadeva, l'elicottero che atterrava, eccetera. No, ma stiamo parlando. Allora, se mi avesse chiamato qualcuno, avrei interessato il comando dei vigili. Scusi, ma quanto è lontano il suo studio dal posto dove è atterrato l'elicottero? È lontano, che ne so io, mica si vede dal mio studio, io sono in una zona periferica. Parenzo. Però lì non è che atterrano elicotteri ogni giorno. Comunque abbiamo capito. Lo assolviamo o non lo assolviamo? Che dobbiamo fare? Bah, chissà. Vedremo. Vabbè. Arrivederci, sindaco. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Saluti, sindaco. Ma roba incredibile, ragazzi. Ma vi rendete conto? No, ma sì, ma tutti. Quando uno gli chiede scusi, sindaco, ma lei non conta un cazzo. Sì, non conto niente, evidentemente non conta nulla, niente. Anche per lui, la gente si sposa, atterra con l'elicottero al centro storico di un paese importante, 6.000 abitanti, chiudono il centro storico, altri. Lui dice ci abbiamo solo due poliziotti, ci abbiamo poche unità. No, non siamo stati noi a chiudere il centro. Ma come non siete stati voi? L'Italia, la Calabria Saudita. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Crucians! La zanzara. Giuseppe, ci tieni sempre a sottolineare che non sei un fanatico dell'igiene, che non ti piace lavarti. Però l'altra sera eri pulitissimo e profumatissimo. Cioè, questa è veramente una trasmissione in cui vengono sparsi dei veleni incredibili. Poi le cose saltano fuori a un certo punto. Veleni, no? Dei veleni. Poi la verità viene sempre a galla alla fine. Spesso raccontano delle cazzate. Ovviamente non ho passato nessuna serata con questo signore qua. Cioè, non ho mai visto in vita mia, non lo conosco proprio. Cioè. Allora, caro David, la realtà è molto semplice. Noi passiamo un certo di numero di ore al cesso, no? Cioè, questo mi sembra chiaro, anche da quello che ha raccontato Sgarbi. Anche quando siamo in viaggio andiamo al cesso. Allora, sta diventando virale da un po' di giorni. Noi ne abbiamo parlato l'anno scorso, qualche mese fa, anche le settimane scorse. Sta girando su internet una cosa che è diventata virale, come si dice, no? Cioè, che cosa? Il modo migliore per cagare. Questa è la sostanza. Come ci si siede sul water? Uno può pensare in modo normale, a 90 gradi, con un libro in mano, il tablet, lo smartphone, eccetera, eccetera. Ma in realtà la posizione più comoda non è questa. No. L'ho raccontato mentre tu eri fuori. Ah, meno però male. Te lo ripeto. No, te lo ripeto. Ma guarda, adesso Non c'è bisogno. Cioè, praticamente questa posizione, quella a 90 gradi, può comportare, ragazzi, state ben attenti, stitichezza, intestino irritabile ed emorroidi. Dice un tizio dell'ospedale San Raffaele di Milano, un tale si chiama Pier Alberto Testoni, con la posizione a 90 gradi, attenzione, si crea un'angolazione del canale anale. Ha detto il professore, non è che lo dico io, Per carità. Il professor Testoni dell'ospedale San Raffaele di Milano, che è un gastroenterologo, anche un primario di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Allora, anche. Con la posizione a 90 gradi si crea un'angolazione del canale anale che crea un ostacolo al passaggio delle feci e determina una stipsi di tipo espulsivo, quella in assoluto più diffusa, e facilita la comparsa del rettocele. Sai che cos'è il rettocele? Te lo spiego io, non ti preoccupare. No. Lo scivolamento di una posizione, di una porzione di intestino retto nella vagina. Come nella vagina, scusa, non ho capito bene. Comunque, la comparsa del rettocele. Questo è il punto. Allora, sembra, lo ripeto a te che non c'eri la settimana scorsa. No, ma io guarda. Che la posizione ideale sia quella a 35 gradi. il muscolo puborettale lavora meglio e ha una maggiore efficacia nella posizione a 35 gradi. Dunque, attenzione ai gradi, 35 gradi è la posizione ideale. Sono studi scientifici, non è che lo dico io, sono studi scientifici, amico mio. Dai. Non si finisce mai di imparare, figuriamoci. 35 gradi, devi misurare, devi stare lì. 35 ma che misurare? Gradi. Ma perché non devi misurare? Ma io non misuro niente. Ma perché non misuro? Quando devo fare quel che devo fare, faccio. Vai là, e ti metti a 90 gradi. Ma mi metto ti come mi metto, ma non ti metti so, a 90 gradi. Ma dipende. Ma sì, ti metti a 90 gradi. Ma, cioè, non ti so, ma anch'io lo faccio, anch'io lo faccio, mi metto a 90 gradi. Però qua mi dicono che c'è stitichezza, intestino irritabile, emorroidi. Allora forse è meglio passare a 35 gradi. Se uno ha il tempo di pensarci, perché la maggior parte delle volte uno non ha il tempo di pensarci, no? O no? Sì, qua si impara di continuo, di minuto in minuto. Beh, scusa, ma queste saranno cose fondamentali o no? Per esempio, la Boldrini, sarà più interessante della Boldrini che ha istituito una commissione di deputati contro l'odio? Cioè, sarà più interessante sapere... Cosa deve fare questa commissione, però? Cioè, beh, questo è interessante, cioè indagare sull'odio. Beh, un po' e lo dice come anche... tema questo qua. Esatto. Ho istituito o basterebbe ascoltare Radio Padania tutti i giorni, e facciamo noi, la commissione sì, sull'odio esatto, viene fatta da noi ogni giorno, esatto, gratuitamente, esatto, mi pare. Bravo. Quindi... Ho istituito la commissione di deputati contro l'odio. Ma no, mandiamo gli file di Radio Padania ma e sì, abbiamo non fatto metà del lavoro, il 90% non c'è bisogno di fare una commissione contro l'odio. Poi che cos'è l'odio? Sono tante cose l'odio, no? Eppure questa ci fa una commissione. E lo dice pure, cioè ha pure il coraggio di dirlo. Cioè fai una cazzata, ma falla di nascosto. Cioè fai una minchiata inutile, falla di nascosto, non lo dire troppo in giro. Niente, non c'è nessuna vergogna. Noi dobbiamo fare un'alleanza contro l'odio. Nel mio piccolo, a Montecitorio, io questo ho fatto. Ho istituito una commissione di deputati contro l'odio. Vorrei che i deputati, i politici, le persone ci mettessero la faccia contro l'odio. Quelli che predicano l'odio non sono tanti, ma sono molto chiassosi. Sì, ma non ho capito a che cosa serve però la commissione. Davide Romano mi scrive, odio quella commissione. Sì, no, ma appunto Davide Romano, dice, che è, tra l'altro ebreo, cioè nel senso vabbè, uno questo non c'entra niente. No, ma ebreo nel che... senso uno dovrebbe odiare... Vabbè, non c'entra niente, cos'è Davide Romano? È Davide Romano, è come dire, dici, chi è il Papa? È il Papa. Chi è Mauro da Mantova, dici, no? Chi è no, Mauro da Mantova? Non è esattamente come no? Quello. Come non è esattamente l'esempio questo? Non è esattamente quello. Comunque, senti, odio è quando qualcuno dice che io sono una bambola gonfiabile. No, magari quella è una ragione. No, non ha ragione. Ragione. A parte che il fatto che tu dia ragione alla Boldrini mi dà anche un po' fastidio alla pelle. Comunque, sentiamo. Una giovane deputata dal nome Jo Cox è stata ammazzata in quanto donna, in quanto attivista e in quanto parlamentare. Questo porta l'odio. Quando qualcuno dice che la presidente della Camera è una bambola gonfiabile, quali possono essere i risultati? Nessun risultato, nessun pericolo. Quando uno dice che la presidente della Camera è una bambola gonfiabile, dice nessuno una stupidaggine, dice una volgarità, sicuramente dice un... Sì, ma non è che ci sono risultati, non è che perseguitano la Boldrini perché qualcuno dice che è una bambola gonfiabile. No, non succede nulla, niente. È, diciamo, un argomento assurdo, chiaramente, ma è una polemica politica per dire che non lo so che qual era il contesto della bambola gonfiabile, non lo so. Mamma mia, ragazzi, bisogna insegnare tutto, eh. Bisogna insegnare tutto, tutto, tutto. Allora, Nicola Napoli, vai. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi, dimmi. Complimenti a Parenzo per la sua dolce signora, innanzitutto. Ma che c'entra adesso? Complimenti per la dolce signora. Non è che uno dice complimenti per la signora. Si faccia i fattacci suoi, no, perché non entri, non so se, diciamo. Non so se pratica anche le stesse inclinazioni sessuali di tue. Ma non si permetta, schifoso. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire, no, Nicola? So che ti piace cosa? Ma piace a chi? A me o a Parenzo? Non ho capito. A te piace. Ma cosa c'entra io con Parenzo? No, è questo mi chiedevo. Ma no, ma Parenzo ha altri gusti, ne abbiamo parlato altre volte qui, adesso non è il caso di tornare sui gusti sessuali, dai. Ma perché ce l'hai? Perché ti sei fissato su questo? Capisco io ti possa stimolare questo tipo di discussione, ma fai raccontami degli affari tuoi allora, scusami. Ok. Allora, no, io chiamavo per il prodigio di San Gennaro, come l'ha definito il TG2. Io più che prodigio, il gioco di prestigio, vabbè. Innanzitutto niente, non hai niente da dire. Hai chiamato e non hai niente da dire. No, mi piacevi di più, insomma, quando ti scambiavano per forbice, non so se ti ricordi, però comunque. Vabbè, amico mio, mi hai rotto già i coglioni. Alberto da Luca, dai, forza. Alberto da Luca. Basta, uno rompe i coglioni, rompe i coglioni. Dai, Alberto, vai, dimmi. Buonasera, ciao. Ciao, dimmi. Allora, vorrei dire una cosa a Parenzo. Sì, chi è questo qui? Come si chiama? Però è Parenzo, Cazzerola. E tutte le volte che ti dicono le cose le persone per telefono e li vuoi denunciare per, e vuoi andare a fare vacanze, ma e non si fa così, li spaventi, porca puttana. Ma dipende, dipende, dipende cosa uno dice. Se uno insulta, no, scusa, dipende, scusa, che insulto è. Abbi pazienza, qua, scusa, ma c'è un limite a tutto. Sei molto intelligente. Non credo che la D24 ti faccia per far soldi a forza di denunciare le persone, no? O mandargli. Guarda, guarda, se uno insulta, dipende dal tipo di insulto. No? Un conto ma è pensarla, no, diversamente. Un conto è insultare. Guarda che quello, no, che accetti, ti vuole lei. Male. È cornuto. Se uno le dice, no, cornuto, ma cretino. Ma io se mi dà del cornuto non è contento, non... vabbè, però ho fatto l'esempio sbagliato, si vede che sua moglie si sta divertendo, che no, devo dire? Se, io, ragazzi io miei, se vi piace così, fate quello che volete, no, ragazzi no, miei, io non lo so. Io se le, se a lei male. Piace essere insultato gratuitamente, no, se a lei piace essere cornuto, male, se a lei piace tornare a casa e trovare la sua amata signora in compagnia del suo migliore amico, ma gli piace così, benissimo. Non finisce mica nessuno. Allora benissimo. Allora benissimo. Che quello che ti vuole male, divertitevi, non dice nulla per telefono, quando ti trova che non hai nessuno accanto ti dà una coltellata. Figurati. E che te ne frega, hai capito, il mondo va così, la gente è stressata. Ciampi, la di lì, le banche che portano via i soldi, che a chi aveva, Ciampi? Era riuscito a mettere da non parte, ho capito, la gente soldi. È stressata. Niente. La gente è stressata e Ciampi, il collegamento, non ho capito. Si capisce. Come? Non ho capito il collegamento tra Ciampi e la gente stressata. No, la gente no, il collegamento nel senso che la gente è incazzata con Ciampi, poveraccio, del morto, 95 anni, con la sua stipendio, con la sua piccola pensione, ma la gente non ha più soldi nelle banche perché... Cioè tu stai dicendo Ciampi è un privilegiaggiato, è stato un privilegiato tutta la vita, ci ha fatto entrare nell'euro con quel cambio e dunque vaffanculo, questo sto dicendo. Ma va bene, ma tante altre cose, è chiaro che qua chiamano una trasmissione stupenda come questa che seguo tutte le sere quando posso, è chiaro che si devono sfogare, però se trovano Parenzo che gli dice sì, come l'altra sera a quella, sì, la crociera ormai ci siamo, mi ricordo, mi sembra quella signora, sì, la crociera, sì, per due persone, per tre persone, beh, sì, più sale il livello dell'insulto più aumenta il premio, capito? Vabbè, la gente va bene, si deve Franco regolare. Cesena, vai Franco. Parenzo, salve Luciano. Sento, volevo dire, segnalare solo questa cosa. Allora, è giusto tutto quello che dice ogni volta su Napoli, sul sud in generale, ma c'è bisogno ogni volta di andare sempre sulle offese gratuite. Adesso c'era bisogno di dire Calabria Saudita. Ma no, ma quello è un modo di dire che si usa quando si vuole indicare che qualcosa è fuori dal mondo. Un paese sottosviluppato. Ah, mio amico mio, ma è un paese normale quello dove si permette. È un paese normale quello dove si permette di atterrare un elicottero per un matrimonio a due signori di cui uno è figlio è nipote di un boss. Normale, è un paese normale in cui si chiude un centro storico e il sindaco non sa nulla perché normale, probabilmente gli amici di questo signore fanno chiudere il centro a prescindere dalla polizia municipale. Dai, siamo in un posto dove l'Italia non esiste, dove comanda qualcun altro. E infatti il sindaco che rappresenta l'istituzione dice: io non conto un cazzo. Questo dice il sindaco. Io non conto niente, lo ha certificato. Non conto nulla. Questa che cos'è? Non è Calabria Saudita, che è un modo di dire. È un modo di dire. Roma Saudita la volta. Vabbè, infatti ogni tanto a Roma vi diciamo. Roma è la capitale, è una città importante, fa schifo, accesso come infatti, certo. Però infatti viene detto spesso, mi pare. Infatti viene detto spesso che Roma è diventata una latrina, ma non è che i romani si incazzano e dicono: no, perché vi offendete? Perché ci offendete così? No, prendono atto e dicono: sì, è vero. È più facile su Napoli, è più facile sulla Calabria. Senti, amico mio, a me i paesi dove uno atterra, i paesi. La tua intelligenza. Vabbè, d'accordo. Un'obiettività e una specularità nel discorso, no? Dire la Calabria Saudita e finirla lì. Allora ti sto spiegando, e poi se infatti glielo ho detto, se uno perché non controlla il proprio paese, se uno non conta un cazzo nel proprio paese e atterra un elicottero e chiudono il centro e lui non lo sa, dovrebbe dire: amici miei, ma non ce la faccio, non comando io. Un paese prende il mitra in mano e faccia fuori tutti i delinquenti. Ci io non lo so, io lo ho detto ma non se lo possono permettere. Ma guarda, come così pensa Roma, c'è la delinquenza. Non credo proprio. Tutti si possono permettere. Allora, in un paese in una situazione normale un sindaco non dice: io purtroppo non posso fare niente e se un elicottero scende al centro perché abbiamo dato un altro permesso oppure il centro non è stato chiuso da noi, perché non esiste una situazione del genere, non esiste, chiaro, non esiste. Guido d'Avellino, dai, Guido. Sono qua. Dimmi Guido, senta, io con molta calma, vorrei esprimere un concetto semplice e molto breve. Radio 24. Sì, è una radio seria. Che propone fiore di economisti. Fiori di giuristi, fiori di personaggi addetti alla trasmissione addetti alle pulizie, addetti alle pulizie perché che vale la, che ma, un momento. come fa a sopportare che due persone che si servono solo di violenza verbale e di turpiloquio possano diffondere nei nostri figli. Sono superiore al turpiloquio. Potrei insegnarle anche qualcosa in più. Mi meraviglio che Radio 24 permetta questo tipo di anche noi ci meravigliamo ogni giorno, la ringrazio, prego, ma con grande piacere abbiamo accolto il suo intervento che trasmetteremo alle persone deputate alla nostra, diciamo, al nostro futuro, caro David. Vabbè, ciao. Voi non avete capito, o per meglio dire non volete capire cosa significa la zanzara. La zanzara. Luciani, a Napoli si può fare le Paralimpiadi con tutti gli invalidi che ci sono. Crucia, mannaggia che la sammenda fracecata la prima magna cazze nonna da cafacetta discendenza. Ricornuto, ritte storto, rimorte chi destra morta. Prima a mamma, tempo a te. Cruciani, sono tornato da una battuta di caccia perché oggi è il primo giorno di caccia. Tre fagiani uccisi e adesso polente e salame. Salutami i miei amici nazi vegani, siamo al top. Io adoro quel pediatro. Sì, perché io sono il suo autista. È morto Ciampi, il boiardo di Stato? Si è campato fin troppi soldi, ha prosciugato lo Stato italiano che ha mantenuto. Cari zanzarosi, la domanda mi sorge spontanea, ma i 32.000 euro di pensione di Ciampi, 32.000 circa, che fine fanno? Hai capito, sì, hai capito quest'ultimi due, sì. No, gli ultimi due te li ho messi a posto. Sei un banco di... Ma è come il ragionamento di quel pirla di Trump, uguale. Cioè, è uguale. Trump? C'entra, perché tutti questi populismi, questa gente qui, dice una stupidaggine che i più pensano sia vera. E è lì che, quando Trump dice che è contro, siccome Hillary Clinton è contro le armi, deve rinunciare alla sua scorta perché è armata, e prende gli applausi, dice evidentemente una stupidaggine mega galattica, che una persona di un minimo di buonsenso lo capisce. Che c'entra la pensione di Ciampi? Ma che c'entra? Che c'entra? Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità e il traffico. La zanzara. Allora, caro David, qui siamo di fronte a una questione, direi, basica, ad una questione... Basica. No, una questione fondamentale. Uno dei protagonisti di questa stagione della Zanzara, Mauro da Mantova, sì, ascoltatore, diventato una sorta di freak, no? Diventato un personaggio che ogni tanto interviene, insomma, ha attaccato anche me. Cioè, essersela presa con te, adesso se la prende con me. Ma ti faccio ascoltare tutto tra un attimo. Di mente. Perché prima abbiamo un collegamento con Vittorione Sgarbi. Vittorio! Ci sei? Non c'è, dai ragazzi, su, però ditemi quando c'è e quando non c'è, dai. Allora, Mauro contro di me, parole forti. Io questa fissazione che c'ha quest'uomo per la lobby ebraica, che cosa devo fare io con questa fissazione? Non devi, devi mandarla a quel paese, non devi più fare intervenire. No, ma senti, devi senti mandargli questa... devi mandargli un'ambulanza, dei medici. Senti questa roba, senti che cosa ha detto, senti. Cruciani, paraculo, sei andato come Alfano, ti sei tolto le mutande e ti sei fatto inchiappettare dalle lobby che comandano sta dittatura di merda. Renzi, che è il pagliaccetto, ma il capo è Napolitano, Prodi, Monti, De Benedetti, magistratura democratica, le lobby ebraiche di Merkel, Hollande. Sei un cazzaro! Cioè, ha messo tutto insieme, capito? Ma no, ma è uno spostato, dai, la persona, ma è una persona, poveretto, è uno spostato, ragazzi, è un maledetto spostato. E cosa bisogna fare, secondo te, con Maurone D'Amato? Ma bisogna intanto capire se ha ancora una famiglia che lo riconosce. Questo è il primo, parla di questa figlia, poveretta, che si vergognerà anche lei, insomma, non bisogna metterla in difficoltà. No, pare che abbia un'ex moglie, da quello che mi dicono. Questo è evidente che è ex, è chiaro. Ma ti pare che uno può avere, ti pare che uno può essere sposato come Mauro D'Amato? Quello torna a casa e dice: e cosa c'hai per cena? Dice: amore, guarda, ti ho fatto la minestra. La minestra? De Benedetti mangia la minestra, capito? Cioè, non è uno spostato, un poveretto. Allora, ecco malato. Che se la prende con me, aspetta, ecco che malato, se la prende malato, con me. Malato. In seguito tra poco. Vittorio, ci sei o non ci sei? Non ho capito. Sì, sono qua, sono oh, qua. Finalmente, no, finalmente. Allora, caro Vittorio, che è successo con sta Swiss Air? Ho saputo che è meraviglioso. Beh, è possiamo meraviglioso. Dire finalmente che Swiss Air. Non fa cagare, però suggerisco a chiunque di non salire mai più. Addirittura. Mai, perché tu sali tranquillamente per andare a Ginevra, come sono andato, con un ritardo di mezz'ora, devo dire, recuperato. Sì. Sei al quarto posto, con questa finta divisione nella prima classe. Sì, sì, c'è. Questo abbiamo sentito. A un certo sì. punto, quello che hai letto, ti viene ad andare in bagno, vai in bagno, ti metti lì. Dopo 5 minuti che sei lì, con una violenza come i nazisti che cercano gli ebrei, bussano. Volevo aprire, farmi vedere, mentre stavo seduto. Successo, a un certo punto ho finito la mia seduta, la potevi aprire. E mi hanno chiamato con la predica, lei non doveva andare, questo è il cesso di prima classe, ma era un cesso più di qualunque altra cosa e non era, non si capiva quale ragione, poi come fa uno a saperlo, c'è scritto cesso di serie A, ma certo, non c'è dubbio, anche Parenzo ha detto che quando lui di solito va in aereo non va mai in business, le no poche dipende, alle volte quei punti della vado anche in business, vabbè, le poche capita, volte ma... che non no, va in business, io poi avevo un biglietto fatto dal teatro di Ginevra, stavo lì, quindi non è che non ho bisogno di prima classe, cioè... ma l'idea è che uno, a parte che non c'è nessuna differenza, debba andare in fondo di 30 fila, o di 30 file in questo caso, sì. per... fare la pipì o qualunque cosa, quando ha una cosa che è a 1,5 metri, ma non è la sua, sì. fanno la predica, se lei alza la voce chiamiamo la polizia, ma tangheri come li ho chiamati, maleducati, io sono un cliente di una linea aerea, mi puoi spiegare urbanamente che forse la prossima volta, intanto mi lasci finire. Ma hai fatto una formale protesta? No, hai fatto una formale protesta? Bisogna dire che ha ragione Sgarbi, perché la pipì di Sgarbi non è diversa da quella del pilota o del signore seduto in prima classe, cioè è la stessa pipì, perché ha lo stesso odore, dipende da quel che uno mangia. Ma in Svizzera mangia, si sono incazzati perché tu praticamente li hai paragonati ai nazisti. Cioè vabbè, questo. Beh, l'atteggiamento era quello, sei tranquillo in un bagno, uno bussa, poi quando vieni fuori vedi due biondini che ti guardano e ti dicono: non alzi la voce, e intanto ti spingono, mi hanno anche spintonato. Io sono stato ma perché non gli hai fatto vedere? Perché non gli hai fatto vedere mentre cagavi? Che sarebbe stato molto. Avrei più... voluto farlo, però tanto non c'era la ripresa, non c'era niente. Non, cioè, valeva non eri, la pena. Non eri, diciamo, in modalità spettacolo. No, diciamo. L'ho fatto per Renzi quella volta di vedere, ma siccome non c'era un video per riprenderlo, se lo meritavo. In ogni caso, posso dire che Swiss non fa cagare e non metterò, e considero non mettere mai più piede su un aereo di gente così maleducata che ti impedisce perfino di cagare quando uno. Ho anche detto, sono un uomo malato. Beh, non malato, potete adesso sei un malato, uomo dai, che ha avuto no, un malato. Problema di cuore, ho cercato di commuoverli, ma in ogni caso chiunque fossi sì, il cesso era a 1 metro ed era logico andare lì, assolutamente, no, non è che uno deve fare riservato, sì, ma riservato a chi? Zucche sì. vuote, capre. Comunque, la Svizzera, speriamo, mucche, perché sì, speriamo di non avere, anche se sti cazzi, poi alla fine, inserzionisti pubblicitari, come si dice in gergo, di quella compagnia aerea, ma ce ne fottiamo comunque. Senti, ma voi ve ne fottete? Sì, sì, noi ce ne fottiamo totalmente, figuriamoci. Però, caro Vittorio, qui la settimana scorsa è venuto da noi l'architetto Fuxas. l'architetto Fuxas. Sì. Poi guarda, io non vi ho chiamato perché l'ho saputo dopo, ma c'è un dato oggettivo. Cioè, ha detto che tu sei un pregiudicato, ha detto, sei un pregiudicato. No, un pregiudicato è un ladro di Stato, un ladro di soldi di Stato. Io non ho rubato mai niente. Beh, quello ha detto Fuxas. Contrariamente a lui, non ho mai rubato una lira. Beh, chi ha rubato? Il fatto avviene che la Corte dei Conti ha perseguito quelli che gli hanno dato una parcella condannandoli troppo grande. Se guarda, ho capito, però lui non è, tu gli hai detto di tutto, gli hai detto di tutto, tu a lui gli hai detto di tutto, ladro. Ho detto la verità, uno che prende 22 milioni di euro per fare una cosa immonda, bruttissima e schifosa. È un ladrone. Euro per mettere dentro della gente dei consigli regionali che rubano anche loro i soldi. Ma lui non ha rubato, semplicemente è stato pagato di più e hanno condannato. Vabbè, d'accordo, ma è stato bravo. Però ma tu questo, gli hai dato del ladrone in Berecondo? No, non me lo ricordo. Beh, come è per quello che lui ti ha portato. Ho detto quello che la Corte dei Conti ha acclarato. Per quello che riguarda me, ripeto, un giudice senza cervello e senza dignità ha condannato me, che era un'aspettativa senza segni. Ma il punto, però, il punto, Vittorio. Fuori le truppe, altro che... Però lui ha preso 22 milioni. Di cui 5 netti dice per sé e viene a parlare con me, si vergogna. Però ha detto che ha preso una lira. Sì, ho capito, ma lui ha detto, lui ha detto senza assegno, continuando questa retorica da 20 anni, senza una lira. Ho capito, ma hai rubato i soldi allo Stato, dice, hai rubato i soldi allo Stato, hai preso, sei stato in ferie là in aspettativa senza. Sto spiegando, zero. Senza assegno, ma ho capito, ma l'ha detto lui. Ha detto lui che sei un pregiudicato, che non puoi fare la morale. Non puoi fare. Anche tu. Ma io che c'entro? Ma l'ha detto. Ma ho capito, Vittorio. Ma io sono convinto che ti hanno voluto condannare apposta. Convinto. È una condanna di tipo assolutamente formale. Perché le carte non dicevano. Lui dice che dovevi andare a lavorare e invece non ci sei andato. Io non ti ho mai dato del pregiudicato, è lui che ti ha dato del pregiudicato, l'ha detto Fuxas. Sono pregiudicato, se hai preso una lira, lo stipendio sono i 22 e lui ha preso 22 milioni, lui li ha presi, la Corte dei Conti lo ha penalizzato. Hai no, lui no? No, ha penalizzato quelli che gliel'hanno dati, forse. Legge, quelli che gliel'hanno dati, lo so, l'ho letto. Ma condannando i funzionari della regione che ti devo dire? La cifra in debita, lui ha preso soldi indebitamente, è un dato certo. Ho capito, io ma non ho preso una lira. Vabbè, ho capito. Si taccia e la smetta di distruggere l'Italia con le sue immondezze. Altro che. Va bene, dai, d'accordo. Però un'altra che è stata da te, che pare si chiami Nappi, devo dire in mente che io conosco un grande Nappi che ha scritto un libro, Francesco Del Costa, di questa Nappi porno star. Capisco che lei dice a sbagli per pubblicità di che, dice la verità, io non uso i preservativi, sì, perché ho un metodo. Sto con le persone che scelgo io e con cui parlo, non sto con chiunque. Beh, capito, ma lei ho capito. Devo avere prudenza rispetto alla mia imprudenza. Ho capito, ma sai, l'AIDS non è io che non se parli con. Se decido di stare con una persona, cerco di capire chi è. Ho capito, ma non se è che. Se ho dei sospetti, rinuncio e non ho bisogno di scopare per forza. Vabbè, non ho bisogno di guadagnare denaro scopando. Va bene. Facendo film pornografici. Va bene, ciao Vittorio, ciao. Siete veramente pietosi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. Ever since I was a young boy. Cruciani, ma l'hai sentita quella pubblicità che mandano del bambù gigante? Fatti una piantagione di bambù gigante. Ma perché non lo chiamano col suo nome vero, cioè Big Bamboo? Ma ragazzi, qui non si discute mai delle pubblicità, l'abbiamo fatto una volta, è successo un casino tremendo, ti ricordi con la storia della cosa, come si chiama? Di quella là, di quella signora. Di chi? La Isabella Bossi Pedrigotti, ricordi? Oh, per carità, sì. Abbiamo sì. fatto una serie di parodie e mi hanno minacciato di cancellare tutte le pubblicità successive. Giusto. Tu ti sembra che è giusto e che hanno ragione? Vedi che c'è meno polemica, giusto? Dici sì, avete ragione. Ci deve essere meno polemica. Sì, ci deve giusto, essere giusto. Tanta polemica. Così si smonta tutto. Dice, cazzo, come hai detto che è giusto? Lo dobbiamo cacciare, hai detto che è giusto? Sì, giusto. Di che è giusto, vedrai. Allora, eravamo prima dell'intervento di Sgarbi, che naturalmente ha detto la sua su Swiss Air, su Fuxas e altre cose ancora. Eravamo con Maurone da Mantova. Io adesso veramente mi incazzo con Maurone da Mantova, perché non mi deve rompere i coglioni. Questo è l'unico posto in cui lui può dire le sue cose, diciamo, chiamiamole cose. Beh, te credo. Chiamiamole cose. Qui oppure all'ospedale psichiatrico, no, questo no, non è che c'è altro. No, perché questo è un grande posto di libertà, un grande, come dire, un posto importante dove anche Mauro da Mantova può dire la sua. E allora, un gabinetto pubblico, un gabinetto di un'autogrill. Ma non è un gabinetto di autogrill, dai, non esagerare. È utile anche quello, per carità, perché la gente la fa in strada altrimenti, quindi è utilissimo. Comunque, Mauro da Mantova, che mi date la testa di cazzo dopo aver parlato di lobby ebraico? Beh, anche questo non è però una cosa così sbagliata di per sé. Dai. Sai qual è il problema, Cruciani? Che sei un testa di cazzo, è un coglione. Tu credi essere più furbo degli altri, invece sei solo un coglione. Paraculo, tamaro, ricottano e lecca coglioni. Hai capito? Tu vai in giro a leccare i coglioni e a me la gente come te mi sta sul cazzo, perché uno non deve mai parlare dignità. Tu invece, per non parlare a tua poltrona, ti sei abbassato a leccare i coglioni, quindi sei un codardo e un testa di cazzo. Ora ti mando a fanculo, capito, coglione? Ma perché? Perché quest'uomo? Perché Maurone? Perché? No, non mi chiede, dice, perché vive? Dice, non ho paura, cioè, senti, non ho paura della lobby ebraica. Cioè, si sente veramente come se tutte le sue fortune dipendessero dalla cosiddetta lobby ebraica. Vabbè, ma dai, ma di cosa stiamo parlando, Maurone? Di cosa parliamo? Perché? Vabbè, comunque sentiamo, perché anche questo va sentito. Anche lo sprofondo va sentito. Vabbè, dai. Poi, cos'è sta storia? Lo faccio per te, Maurone. Oh bello, a che non ha paura di nessuno? C'è un meco un cacasotto come te, che per paura e per la poltrona ti sei abbassato a leccare il culo a sti ricottari ebrei di merda. Io gli ebrei gli spiccio in faccia e gli sputo in bocca, hai capito? A me non mi fanno paura, io non ho niente da perdere, hai capito, coglione? Perché mi hanno già preso tutto, mi hanno già preso la dignità e il mio lavoro. Perché se non lavoro più, coglione, è grazie a quei lobbisti mafiosi di merda, perché prima l'economia girava, è arrivato quel bastardo di Monti, che è un ebreo di merda, come quel frocetto nano che è a fianco, e quell'altro suo cognato De Benedetti, altro ebreo di merda, che per salvare l'Europa e i loro amici banchieri hanno mandato in culo, in vacca, tutta la piccola microeconomia italiana, hai capito, coglione? Questa è l'ultima parte del delirio. No, ma non si può parte sentire, dai. Cioè, ma è una roba incredibile, dai. Una ma roba non mandarlo in onda, ma di nuovo. No, ma bisogna mandare in onda certe cose. Ma per... è un matto. No, ma bisogna mandare senso, in onda perché ma fa è arrivato schifo. Allo sprofondo, capito? Perché per dire, è arrivato allo sprofondo. Uno così è arrivato allo sprofondo. Speriamo che qualcuno intervenga veramente. Perché non è possibile. Dai, non lavoro più a causa degli ebrei. Mauro, basta con queste cose. Basta, ti invito a dire basta. Perché altrimenti ti devo denunciare. Ti invito a dire basta. Cioè, qualcuno lo farà di sicuro. Basta. Oh Cruciani, testa di cazzo, dove cazzo vivi? Su Marte, imbecille. Oh, io non lavoro più grazie a Napolitano, Monti, De Benetti e Prodi. Non lavori più perché per Parenzo, diciamo, perché no, perché non lavora più, perché non lavora più, ragazzi, ma è una cosa schifosa, ma no, perché non lavora più ma perché è un malato di me, ma uno che mai non va, fa schifo, può neanche commentare, fa schifo. Allora, Marina Ripa di Meana con noi. Marina, come stai? Bene, grazie, buonasera. Come andiamo, cara Marina? Andiamo, tiriamo innanzi, come si dice. Non sono un leone, ma tiro innanzi. Ecco, mi ha colpito molto nei giorni scorsi quando hai detto che sei praticamente in chemioterapia da un sacco di tempo. Cioè, in chemioterapia da un sacco di tempo. Che stai facendo da tempo? No, allora si è capito bene. Non un sacco di tempo. Io da molti anni, da 16 anni, sì, ho avuto un cancro al rene che allora... è stato asportato da allora in sì. periodi vari, ma non sì. sempre sì. nei periodi vari ho subito varie chemioterapie, vari interventi, vario di tutto. Mi sono però curata e ho detto sono viva, però ho avuto delle metastasi, meno male, che se Dio per me. Certo. Scusa, ma allora, come giudichi quelli che dicono no, io la chemioterapia non la farei mai, per esempio Red Ronnie, oppure la Brigliadori che dice di affidarsi. La Brigliadori non si sa se l'ho sentita varie volte, non si sa se ci fa o ci è. Cioè, secondo lei è completamente cretina. Ma non si capisce perché una altrimenti andrebbe denunciata. Secondo me è una che attira, insomma, su questa cosa assurda, folle e grottesca. Lei ha fatto sì che ancora si parli di lei, forse questa potrebbe essere un'idea. Così come potrebbe essere, ma secondo me ci crede invece, crede a queste terapie alternative, sì. E se ci crede è una povera da internare, insomma, perché poi è molto pericoloso questo messaggio. Cioè, tu dici una che si rivolge, una che si rivolge a lei, che dice io sono incerto se fare la chemioterapia o no, lei dice no, non la fare per carità, perché ti procura i danni, dei danni sono da portare direttamente al manicomio. Insomma, è qualcosa di più forse del manicomio, insomma, è una cosa, è proprio, è un pericolo pubblico per l'umanità. Oggi le cure sono andate avanti in un modo incredibile, tutto va male a questo mondo, l'unica cosa che va bene è la scienza, per cui perché non è cambiato tutto, la chemia non è più quella chemia di una volta che effettivamente distruggeva, che vabbè, faceva... Sì, adesso, comunque giudichi tutta questa cosa qua delle follie pure. Delle follie molto pericolose e molto, e per questo sono sempre, appunto, ho mandato questo messaggio, perché tutti sappiano che bisogna curarsi e che le cure non sono così, non hanno tutte queste controindicazioni, brava, e non sono così pesanti, sì. E non sono così pesanti perché si sopportano, e io sono l'esempio. Tutta quest'estate ho fatto una sorta di chemio che non è proprio la chemio in vena, ma sono delle pillole, sì, adesso sì, appunto, sì. Che è sempre chemio è, però adesso torno a dire, le chemio sono in varie soluzioni, in vari modi, sono state molto cambiate, e tutta l'estate, ancora oggi le faccio, io adesso alle mezzanotte di sera prendo quelle famose pillole, e domani, insomma, la mattina ho l'inconveniente che sono un po' debole, un po' fragile, però lavoro, uscirà tra poco un libro mio. Sì, assolutamente. Ecco. E sono fatto tutto un'estate viaggiando, sono fai stata ancora a Venezia. Sesso, riesci a fare sesso per beh, adesso non scherziamo su questo, ragazzi, perché non c'è da scherzare. No, vabbè, certo, ma è una delle cose che si fa, però sì, vabbè, si dice, però insomma è una cosa molto seria. Senti, a proposito, invece di sesso e di quello che è uscito fuori dalla vicenda Cantone, l'hai seguita la vicenda di questa ragazza, sì, no? Sì, eccetera. Sì, che sì, ne pensi, sì, che ha sbagliato pure lei, che ha fatto? Io penso che non si può, poverina, attribuire questa cosa solo al fatto che appunto ancora vanno in onda, perché lei dal momento che ha denunciato è una persona fragile, una persona che ha sbagliato, poveretta, che ha sbagliato. Ha sbagliato a mandare comunque questi filmati a i filmati devono rimanere là tra amici, non è che l'ha messi direttamente in rete. Le probabilità teleponi che tra quattro amici disgraziati che sgallettati ci potesse essere qualcuno, ho capito, ma non è che uno pensa mandandolo agli amici che poi vanno a finire a Marina di Vedemeana oppure a Giuseppe Cruciani, pensa che restino tra amici, punto e basta. Insomma, c'è una fragilità di pensiero in questa idea, io non manderei, anche se avessi fatto delle fragi, dei siti porno, non me li terrei a casa, non li manderei certo in giro ai quattro amici. Comunque, cosa c'è? Esibizionismo, no? No, c'è che forse probabilmente lei era, come dice la madre, plagiata da questo fidanzato, c'era una tra loro una, insomma, è una poverina. Vabbè, ma quelli che fa fanno anche quelli che fanno, beh, una poverina che fa pena, certo, è morta, non c'è dubbio. È morta, fa molto pena, perché non si arriva ad ammazzarsi se non si è molto fragili, perché ci sono Senti, a proposito, questo. Roma, qual è la situazione a Roma? Tu che stai a Roma sei sempre molto attenta e sempre Roma è un disastro. Roma è un disastro, per peggio di così non potrebbe essere, siamo alla frutta. Ma stai al centro, tu a Prati, al centro. No, ci sono topi che girano, guarda. Ma ci sono topi che girano? Sì, ti assicuro. Quali topi che girano? Topi, ci sono topi. Sorcone, come si chiamano? Sorcone sono altre. Le pantegane che girano a Prati. Voi state al centro di Roma, tutti e due, a quartiere Prati, e girano le pantegane. Ci sono delle pantegane, ti assicuro. Ci sono le pantegane che girano. L'altro giorno è venuta una mia amica che non mi ha raccontato, che non so dove, vicino a Piazza del Popolo, che giravano due pantegane enormi, gli hanno attraversato la strada. Ma quali girano indisturbate, lei era ma davanti. Ma quali pantegane, ma non dite cazzate. Assolutamente. È vero. Io ne ho fotografata una la settimana scorsa. Ma perché? Seduto. Perché c'è la monnessa per strada? Perché ci sono le pantegane? Ero seduto in un ristorante. Dove non dire che non dirò il nome, ma insomma vicino alla casa mia e di Marina, un posto che anche lei ogni tanto frequenta, una pizzeria, diciamo, in zona Prati. Oddio, sì, capito qual è. Adesso voglio dire quale, allora? Perché pizza bassa, buonissima. Vabbè, bassa, bassa. Non ce ne frego cazzo, eh? No, ma vicino a un cinema, ecco, lei ha capito dove è. Allora? Una pizzeria. Ero lì seduto fuori e a un certo punto mi scorre, corre davanti questa roba qui. Qualcosa è un gatto. Sì, era una pantegana, perché ci sono tutti i rifiuti dei ristoranti, anche, che spesso vengono lasciati fuori. Ma adesso quelli perché sono degli zozzoni quelli. No, ma che zozzoni, perché lì ci devono venire a raccogliere, ovviamente. Va bene, però sai, questi prolificano, ecco, lì certo. Ci riempiremo. La Raggi che c'entra, la Raggi che c'entra. No. Boh, la Raggi, so la c'entra, Raggi, ma... poveretta, non dà segnali, l'unica cosa. Per come ora, la definisci? Una bambolina imbambolata, come disse De Luca, una bambolina un po' imbambolata. Beh, non la definirei, io sostengo anche che dal momento che c'è gli darei anche fiducia, perché ora se cambiava pure la lei se ne va pure. Vabbè, lei. Vabbè, quello non c'è dubbio. Comunque ecco, esistono, però... esistono le sorcone, le pantegane. Vabbè ragazzi, però secondo me ne avete viste due, adesso Roma in base. Guarda, alle... ti dirò di più che l'altro dimmi giorno più. C'era una ragazza, una zingara che frugava zingara, dentro la mondizia, sì, allora? E si portirava fuori tutta la roba e tirava fuori tutto, per cui quel poco di che era dentro, sì, finiva, sì, tutto che vabbè, ho capito, ma quella la zingara, no, ma prendere, lì arrivano le pantegane, lì prendere quella zingara. Prendere quella zingara e denunciarla. Difatti, e denunciarla. Infatti, questo è stato fatto. Pure piena di zingari? Piena di zingari, pure Roma? Piena di zingari. Roma diventerà Zingaropoli. Zingaropoli. Zingaropoli. Zingarelle. E poi? E piena di pantegane, di topi. Piena di zingari e di pantegane. Ma tu veramente hai paura delle orde di zingari che possono invadere Roma? Che hanno già invaso, magari, secondo te, o no? Beh, oddio, io sono stata derubata in questa casa e già mandata a dire che a quelli che dicono che non bisogna. Cioè, tu i zingari proprio non li sopporti. Le pistole ho mandato a dire che mi munirò non di pistole, ma di qualche altro molto molto. Di cosa precisa. Ti munirà? Di cosa ti munirà? Non so, di qualcosa mi sono. Mi devo ma gli zingari ti danno fastidio, gli zingari, a te, moltissimo. Come dire. Beh, insomma, abbiamo già fatto una trasmissione. No, su ma come si, gli zingari ti danno fastidio, proprio non li sopporti, diciamo la verità, non li sopporti gli zingari, dai. La realtà è questa. Chi è che li sopporta? Ci sono persone che hanno un particolare amore per gli zingari, pazzi, così. No, come Parenzo, no? Parenzo vuole diventare il portavoce degli zingari. No, ti saluto, no. Ti abbraccio, capo. Marina, ciao. Bene, Adriano, ciao, Napoli. Ciao. Ciao. Adriano, bello. Napoli, vai. Adriano, sì, buonasera dottor Fuciani. Dimmi. Volevo dimmi. Fare una domanda al dottor Parenzo. Al dottor Parenzo, sì, anche a lei. Sì, dica. Volevo chiedere al dottor Parenzo, perché si nervosisce tanto quando qualcuno tocca gli ebrei? Quando qualcuno tocca gli ebrei? Porta, che vuol dire? Quando per radio ascoltatore ha detto che gli ebrei hanno portato i loro averi in Svizzera, quando questa è una realtà. Ha detto una micchiata, cioè, ma... perché è puro razzismo. Io ho detto che i miei parenti sono scappati. Lui ha detto durante dei parenti, lui ha parlato dei parenti di Parenzo, non costretti a scappare perché non potevano stare in Italia perché c'erano le leggi razziali. Imbecille d'un imbecille. Non ha parlato di ebrei in generale, imbecille, cretino d'un Adriano? Imbecille. Cretino. Adriano, hai capito o no? Cretino, però... non può capire, è un cretino proprio della mente, è un cretino, non può capire niente, poverino. E chiudiamo così, ciao povero ragazzi. Imbecille. A domani, Parenzo, non stai calmo, il cardiologo poi ti bacchetta, ti rimprovera, dai, stai calmo. Vaffanculo, culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.